fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento, di nuovo benvenuti a tutti. Sabato 8 dicembre ormai, è lunedì 16 del mattino, quindi è la notte tra venerdì e sabato per essere precisi, come piace essere a noi. Allora continua la nostra festa all'interno di questo venerdì doc, ma mentre la gente balla e la gente insomma si diverte in pista, noi apriamo il nostro spazio per raccontare quello che succede all'interno di questa serata. E ho qui vicino a me uno dei protagonisti di questo venerdì, uno dei... come ti sei chiamato prima, che l'hai detto mentre facevamo il video, il... aspetta, non mi viene più il termine. Domenico il cugino. No, a parte Domenico, ecco, però insomma, diciamo che l'organizzatore, ecco, di una bella rimpatriata tra cugini, appunto, hai usato un termine che mi è piaciuto prima, ma adesso non mi viene I in mente. I cugini calabresi. I cugini calabresi al gruppo, no? Dicevo, tu, in quanto organizzatore, in quanto figura portante di questo gruppo che ha organizzato questa bella serata, Domenico, appunto. Allora, so che voi siete abitate, io adesso tutto in zona Brescia, ecco, per essere... Esatto. Per essere più o meno generici, però venite in particolare da? Allora, la maggior parte, diciamo tutti, dalla Calabria. Sì. Siamo tutti calabresi, ma ogni anno, come ormai da tempo, facciamo una rimparatiata che praticamente... Bello, da tradizione. Ci troviamo tutti i cugini, che tra l'altro siamo... tantissimi cugini, sì, sai. Come da tradizione calabrese. Esatto, la tradizione calabrese ormai dice che... Se siete in pochi, no, non siete originali. Non vale, capito? Anche quasi come se arrivassero cugini di cui nemmeno conoscevi l'esistenza. No, ma scherzi, però. Siamo circa 70 cugini, fantastico. Quindi io... Cioè, fantastico, ma vi siete mossi tutti insieme o la spicciolata? No, stasera una gran parte, cioè no, proprio una senso, piccolissima da giù, sono venuti su, allora, siete venuti su insieme, esatto, in gruppo? Esatto, la maggior parte viviamo tutti qua, quindi... Siete arrivati nello stesso momento o alla spicciolata in momenti diversi? No, beh, nei periodi... Dagli okay. anni 90, 95, quindi parecchi anni. Per lavoro, immagino. Sì, assolutamente. Tutti per lavoro. Quindi siamo, e ogni anno, come di tradizione, facciamo questa festa tutti insieme. Okay. Ma avete modo di rivedervi anche in altre occasioni durante l'anno? Sì, assolutamente. Diciamo ci che troviamo. Questa è ufficiale, il ritrovo sì, ufficiale. Diciamo che il ritrovo a Natale, diciamo nel periodo natalizio, è quello di routine. No, bello. Ecco. Diciamo come fosse quella che noi chiamiamo cena aziendale. Esatto. Quella noi la invece la buttiamo su familiare. La familiare, cioè. bello. Quindi siamo tutti cugini che ci troviamo ogni anno e facciamo appunto questa rimpatriata. Bello, bellissimo. Poi 70 è veramente un numero spropositato, sì, ma non metto in dubbio. Stasera siamo una piccola parte. Sì, No, mi preoccupano sempre i matrimoni, insomma le cerimonie importanti in cui immagino che far la lista sia un incubo. Perché ti viene quasi da non dico escludere qualcuno, ma di dover fare delle scelte. Sì, guarda, io ho dei ricordi... che comunque i classici matrimoni, sai, i matrimoni calabresi. Sì, da weekend, no? Durano tre giorni. Cioè, dove ci sono comunque 350 persone, 400 persone, sì. Solo quelli più stretti, capito? Esatto. Quindi, quindi è una cosa, una tradizione che ormai 350 persone sono una cosa. E il problema, come dicevo prima, magari persone che sarebbero tuoi parenti più o meno sì, strette, sono gli amici ma che più nemmeno, stretti, no, è che nemmeno conoscevi o che hai visto pochissime sì, volte. Sì, ma scherzi, io ho parenti anche in Australia che comunque non so neanche chi cioè li vedo in foto. Fantastico. No, è una tradizione stupenda. E dicevi, siete venuti qui per lavoro, tu in particolare cosa fai di bello? Io ho un'azienda che comunque è un'azienda di idraulica. Sì. Ho 8 dipendenti e vivo qui ormai dal 1995. Ah, dal 95, ok. Quindi sei uno che, insomma, uno che ci sa fare con le mani, che aggiusta. Insomma, è una cosa che comunque mi porto dietro. Vabbè, insomma, mestiere. La manualità è esatto. Saper fare un mestiere è una. Come è una dote, anche tutti gli altri è una dote che si è persa. E ne approfitto per una domanda. A noi piace fare, come dire. Andare un po' fuori dal seminato, diciamo così. E, mi confermi che Intanto salutiamo il pubblico pagante che ci sta facendo una ripresa. Noi giustamente ci doniamo alle telecamere, come è giusto che sia. Siamo quindi qua, siamo salutiamo. Qua. Salutiamo, noi siamo ovviamente in pasto alle telecamere. Dall'altra da parte veri, del vetro. Bravo, bravo, da veri artisti, diciamo così. No, volevo dire, è una leggenda, visto che tu sei anche arrivato, hai cominciato nel 95, quindi nel periodo giusto. È una leggenda o meno che in quegli anni l'idraulico era un po' il sex symbol, visto come sex symbol, e adesso è un po' scemata la cosa, lo allora, confermi? Ascoltami, allora, è una... cioè dicono che l'idraulico negli anni ha fatto qualcosa che comunque, sai, l'idraulico che entra in casa la donna sola... Ci sono queste leggende. Ti posso assicurare che basta che fai il tuo mestiere, basta che sei una persona corretta. Sì, ma corretta. Hai notato che suscita un certo fascino oppure no? Dipende se dai la possibilità di fare o non fare. O rimani, fermo al tuo lavoro. Nella tua professionalità, comunque... rimani lì fermo, basta, non dai modo e... Però c'è un po' questa cosa. Come magari per l'uomo l'hostess, l'avvocato, insomma la donna in carriera, no? Non si vuole sbottonare, non si vuole sbottonare troppo. Fa un po' il democristiano, esatto, in questi casi. E poi però so, se ti va di parlarne, che hai anche un'altra grande passione, giusto? Allora, io ho una passione che ormai... Mi porto dietro da parecchi anni, che è il ballo. Sì. È una passione che ormai è diventato quasi un secondo lavoro. Quindi a quel punto posso dire benissimo che è il mondo latinoamericano. Mondo latinoamericano è la mia passione. È una... tra l'altro anche a scuola di ballo. Sono professionista, quindi ho una scuola di ballo e sono maestro di ballo. Oh, bellissimo. Quindi dai, fatti un po' di pubblicità, dove ti troviamo? Sì, faccio una piccola marchetta. Certo, c'è qui apposta. Allora, la scuola di ballo è Salsa Lover. Salsa Lover, ok. Ci troviamo a Desenzano, Montichiari, Mazzano, Ghedi. Quindi siamo un po' sparsi. Provincia di Brescia e provincia Lago di Garda coperte. Sì, bene, assolutamente. Bene. Contattatemi senza nessun problema. Assolutamente. Domenico Salsa Lover. Salsa Lover, Salsa Lover, assolutamente. Quindi grazie. Esibisci, grazie per la marchetta. Grazie. Siamo qui apposta. Ti esibisci quindi anche. Sì, sì, facciamo. Adesso abbiamo smesso con le esibizioni, con le gare, però comunque sia manteniamo ancora quel ritmo del ballo, manteniamo comunque. Ok, ti faccio due domande anche qui un po' proprio per togliermi una curiosità. La prima è, visto che il latinoamericano è un ballo cosiddetto di figura, nel senso che ci sono quelle figure standard, nel senso che ogni figura ha il suo nome, ogni figura ha la sua posizione, il suo modo di essere interpretata, preparata e anche eseguita, come fosse veramente un piccolo compito da svolgere sempre. C'è bisogno quindi di una partner fissa, oppure hai proprio... perché io ho sentito tante volte questa cosa dire al latinoamericano: guarda, una volta che tu sai ballare ti puoi buttare in pista e chiunque ti capiti vicino riesci a ballarci insieme, quasi come se sembraste una coppia vera, cioè nel senso che fosse il tuo partner veramente. Esatto. Lo confermi, o come nel ballo di coppia che si rispetti c'è bisogno di un partner allora, fisso? Allora, la cosa più giusta è frequentare con la tua compagna, con la persona a cui hai una certa, come si suol dire, una confidenza, no? Certo. Sai, il ballo latinoamericano è un ballo molto di contatto, sì, un sensuale, ballo molto certo. sensuale. Quindi se tu hai una compagna, tanto di guadagnato, ok? Chiaro. Però nulla toglie che comunque se tu fai un ballo latinoamericano, nulla toglie che una volta che conosci il ballo puoi ballare con chiunque, quindi è vero. Sì, cioè che io vado in discoteca da solo, mi butto in pista, assolutamente, e chiunque veda, no, però nel senso, se trovo una persona che sa di cosa stiamo parlando, sì, riesco comunque a ballarci quasi dal nulla, un'estranea. Sì. Qualunque persona tu possa trovare, se lei conosce il mondo del latinoamericano, esatto, il mondo del ballo, il mondo del caraibico, può ballare con te, basta. Per quello che dicevamo prima, il fatto che ci sia una figura eseguita, preparata e fatta in un certo modo, quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, assolutamente. E la cosa esce esatto, bene. Esatto. Ok, seconda cosa invece che ti volevo fare, la seconda domanda, perdono, che ti volevo fare. io ho sentito la stessa cosa dire del canto, cioè che non esistono persone stonate, ma esistono solamente persone che vanno allenate, chiamiamo così, a sentire i suoni. È così anche nel ballo, cioè sai quando si dice no, io sono un pezzo di legno, non mi muovo. Cioè esistono veramente i pezzi di legno o comunque basta solo essere addestrati a sentire il ritmo, a sentire la melodia e a seguire i passi? Guarda, nei miei anni di esperienza posso dire così, pecco di presunzione. Vabbè, insomma, è giusto che tu faccia professionista. Nei miei anni di esperienza ti posso dire che ho conosciuto delle persone dove dicevano: guarda, io sono un palo, sono una persona che sono un paletto, non mi muovo. Poi alla fine tiri fuori quello che c'è veramente in te e scopri di avere dentro un ballerino. Quindi certo, scopri di avere la persona in te che è un ballerino. Quindi io ho conosciuto persone che alla fine dicevano: guarda, io sono un pezzo di legno, sono una persona che non, cioè non so fare un passo. Alla fine scopri di essere veramente un ballerino. Quindi indubbiamente non lo scopri in due lezioni, chiaro, in tre lezioni, lo scopri col tempo, che sai di sentire la musica, che è già una cosa molto importante, scopri di saper tenere il tempo, scopri di saper comandare la dama, scopri di saper subito interpretare quello che è il ballo o quello che è il mondo latinoamericano. Quindi da lì scopri di avere veramente quel talento che ti porta a ballare, certo, latinoamericano, appunto. Quindi mi confermi anche, diciamo così, un messaggio tra virgolette per tutti coloro che magari sono interessati, curiosi, ma hanno questa sorta di timidezza, questa difficoltà a buttarsi per questo motivo, che basta solo un po' di educazione, chiamiamola così, educazione alla musica, al ballo, eccetera eccetera, e comunque ci si può arrivare nonostante ci si consideri negati nella danza. Consiglio, cioè non c'è nessuno negato. Consiglio comunque di fare una scuola di ballo, di frequentare una scuola di ballo, perché quello che ti insegna la scuola di ballo è chiaro. Indubbiamente, se è una scuola di ballo valida, se è una scuola di ballo che comunque chi ti insegna è un professionista, chi ti insegna è un diplomato nel mondo del, certo, ballo, può insegnarti dei passaggi dove tu capisci effettivamente quello che è il mondo del ballo. Perché fare un giro, fare un movimento, fare un qualcosa, qualsiasi dama può farla, perché tu basta che la muovi, la dama lo fa. Certo. Però farla in un certo modo, con un sistema, con un qualcosa che ti insegna la scuola di ballo, non è, certo, la stessa cosa come farla distinto. Chiaro. Quindi consiglio pienamente di fare comunque la scuola di ballo. Sì, io ecco, parlavo a quelle persone, come ti dicevo, che ce ne sono, perché non sentite, curiose, che vorrebbero provare, ma che hanno paura a buttarsi, perché sai che il giudizio, comunque la difficoltà di mostrarci deboli, un po' timidi di fronte alla gente, sì, o comunque, sì, di far vedere che non siamo così bravi come sembriamo, o che gli altri sono più bravi di noi, crea quella sorta di distanza. Però era proprio un voler, tramite le tue parole e la tua esperienza, passare il messaggio che la curiosità va soddisfatta e va scoperta, perché assolutamente c'è modo io, per tutti di imparare. Esatto, io dico sempre venite a ballare, perché quando si è in discoteca nessuno sta lì a guardarvi, a giudicarvi, a dire oh cavoli, quello non balla bene, certo, quello balla bene. Nessuno, perché ognuno quando balla in discoteca balla per divertirsi, balla per, comunque per passare la serata, e pensa a tutt'altra cosa che stare lì a giudicarvi, a guardarvi o fare tutt'altro. Ecco, tutto qua. Bene, bene, quindi anche un invito, come dicevo, a tutti coloro che vorrebbero, ma grazie per avermi dato la possibilità ci mancherebbe, di parlare del mondo del ballo. No, che siamo qui apposta. Allora dai, andatelo a trovare, che lo vediate con una tuta da aggiustare dei tubi, o che lo vediate con un vestito salsa elegante, Salsa Lover, o che lo vediate Facebook con un vestito elegante, seguitelo, Salsa Lover. Grazie Domenico, e alla prossima, grazie, ripatriata. Un saluto anche a tutti i cugini che grazie, però grazie, hanno, come sempre, sono meno animali della notte di Domenico e sono già, esatto, in branda. Esatto, sì, sì, sì, esatto, esatto. Però li salutiamo tutti. Grazie comunque, grazie Convento di Lonato. Grazie. Grazie a te, buonanotte.